So se tira o da follia sospinta, parla chi sei. Tal sono che risponder non tengo a tuo insinico. Con l'esente castigo, il poco senno, il debil sesso, a forza tosto. Guardami e temi d'offender nel mio seno, e di da più sole. Io cada mira son vergine di letto, tutto so, tutto vedo, e l'opera mia così raggio di sol vien di là sopra. Invan! Si vegno il cielo, mai non si tenti, un chi doni ne vanta si rispetti, l'audacia anche nel vanto. Cino, tu osserva il prince, e quanto gli tenta previeni.